Ad alta voce, Ferdinando Bruni legge L'onda dell'incrociatore di Pierantonio Quarantotti Gambini. Settembre, nel Mandracchio, è il mese più bello. Alla Virtus la stagione remiera si conclude e sta finendo sul pontone di Ario la stagione velica. Pure è proprio in quelle settimane, al principio d'autunno, che le canottiere fervono quasi in una lieta ripresa. E i giorni più belli, in settembre, sono gli ultimi. Le barche dondolano sulla maretta facendo oscillare le alberature e lingue di sole tremolano nell'acqua come in primavera, riflettendosi sul bianco, sull'azzurro e sul rosso lucido degli scafi. A bordo dei trabaccoli il lavoro sembra più leggero. Le voci s'alzano cordiali e ogni tanto s'ode abbaiare un cagnetto. Quel mattino, dopo l'arrivo degli incrociatori, mentre Berto correva dietro al duca, Ario era rientrato lento sul suo pontone. In cima agli alberi, sui velieri e sui rimorchiatori, le bandiere sventolavano leggermente. E sventolava il gran pavese dall'uno all'altro albero del piroscafo che faceva scalo alla banchina sotto la lanterna. Seduto sulla zattera d'approdo, Ario dondolava le gambe e ogni tanto faceva schiuma nell'acqua coi piedi, ma li muoveva con forza, quasi con rabbia. Fischiettava ed era scuro in viso. Non guardava nel mandracchio verso i velieri né sull'acqua viva di sole che rifletteva le bandiere in un tremolio continuato. Torbidi, i suoi occhi sfioravano le cose senza osservarle e poi tornavano a guardare lì sotto quella schiuma che egli alzava coi piedi. Di tanto in tanto sollevava il capo e stava qualche istante immobile, in ascolto. La brezza portava un suono di banda. «Chissà dov'è Berto?» pensava, e lo vedeva correre dietro i cavalli a pochi passi dal duca, come era scomparso sulle rive tra la ragazzaglia in festa, mentre lui doveva tornarsene indietro, da sua madre che lo chiamava. «Sarà alla rivista. Vedrà il duca sul palco decorare i marinai tornati dal Mar Rosso». Ricominciò più accanito a sbattere i piedi nell'acqua. Che bisogno c'era che sua madre lo richiamasse e lo costringesse a stare lì, a guardia della canottiera, mentre tutti correvano alla rivista. Voleva uscire lei, sta bene, ma il pontone una volta tanto poteva restare incustodito. Bastava chiudere a chiave le porte e il cancelletto tra la passerella e il ballatoio. Quel mattino tutti erano altrove. Soci non ne sarebbero venuti. Ogni volta che sentiva la banda o guardava intorno a sé il mandracchio deserto, svuotato, il dispetto gli cresceva. «Mi ha chiamato e poi non è nemmeno uscita. Deve essere ancora dentro che si sta vestendo. Se mi lasciava a quest'ora potevo essere già in piazza a dare un'occhiata e anche di ritorno». In quel modo non avrebbero veduto nulla né l'uno né l'altra. Ma ecco il suo passo, forte, sul ballatoio. Sì, era lei. Usciva. Indossava un abito bianco a fioroni, aderente, e le gambe nude, fuori da un paio di scarpette nere coi tacchi alti, facevano vibrare i muscoli. Ario si alzò, infilò il ballatoio e poi la scaletta, salì sul tetto del terrazzo. Voleva vedere dove andava. Giunta alla fine del molo, la vide svoltare a destra. Non si dirigeva verso la piazza, ma dalla parte opposta. Costeggiava al mandracchio e spariva di tratto in tratto dietro i cumuli di legname scaricati dai trabaccoli o dietro i vagoni fermi uno qua e uno là, lungo la riva. A un certo punto la vide voltarsi sorridendo e poi soffermarsi con una guardia di finanza. Poi proseguì lungo le rotaie e guardava ogni tanto verso la sacchetta deserta ove s'alzava solo l'abbaio giovane di un cane. Non gli occorreva altro per capire. Va da lui. Lo cerca. La seguì un ultimo istante con lo sguardo mentre rallentava già vicina al Titanus. E si sentì sommuovere in petto di colpo un'angoscia assopita. Va da lui e scommetterei che... Sì, voleva accertarsene. Ci pensava già da alcuni giorni. Scese, entrò nel camerone, sconvolse il cassetto di lei. Niente. I soldi, quelle carte spiegazzate che aveva portato a casa la sera prima, come sempre quando tornava, non c'erano più. Va da lui e gli regala i soldi, come ha fatto con quelli del mio salvadanaio. Si ripeteva uscendo sul ballatoio e procedeva senza più sapere dove andasse. Va a consegnargli tutti i soldi che riesce ad avere. Ma a lei chi glieli dà? Sospettava, presentiva questo con un nuovo oscuro rancore, sin da quando Eneo era riapparso dopo le regate di Napoli. Quei soldi, come venivano, così sparivano, da un giorno all'altro. Adesso sapeva, aveva potuto controllare. Era lì che ella gli portava, sul Titanus, il rimorchiatore sul quale Eneo era imbarcato da poco. Si ricordò, quasi in un rigurgito amaro, e avrebbe voluto riderne, ma non seppe, di una frase piena di livore contro Lidia che ella gli aveva urlato un mattino. Ed era meglio non rammentarsi quando. «Ah, sei stato fuori tutta la notte con lei e scommetto che le dai anche soldi!» Era giunto di nuovo, senza accorgersene, sul terrazzo. Si appoggiò istintivamente all'albero su cui sentiva sventolare il tricolore con un fremito continuato. «Porta tutti quei soldi a Eneo, ma a lei chi li dà?» Fece uno sforzo per riprendersi e si guardò attorno. Era come annebbiato. Gli giungeva da capo, ora sì, ora no, un suono di banda, lontano. Rivide anche nel cielo chiaro alcune fumate, lente, e stentò a ricordarsi che erano gli incrociatori entrati in porto quel mattino, gli stessi che con le loro ondate avevano fatto sobbalzare le canottiere. Gli riapparve la sarabanda dei trabaccoli e delle imbarcazioni da diporto e gli occhi gli corsero dalla parte dei rimorchiatori verso la Maona che per poco non era stata sommersa. «È strano», pensò. «Berto da qualche giorno la fissa con quella Maona. Chissà perché». Le erano andati col caiccio tutti in giro sotto i fianchi neri che allargavano sul mare un semicerchio d'ombra per cui l'acqua pareva in quel punto più fonda e fredda. Ed erano anche saliti a bordo. A Berto non era importato di scendere nella stiva, bensì nella cabina, a poppa, che doveva essere, diceva, una vera e propria cameretta ove il timoniere o il custode aveva il suo giaciglio. Scesero per una scala ritta in piedi e fu come calarsi in un pozzo, con la differenza che il piccolo ambiente era caldo d'aria stagnante. In quel buio non distinsero nulla. «Avranno», aveva detto Berto, «una buona lampadina». «Chi?» aveva domandato Ario. «Se ti ho detto che c'è un giaciglio». «Lo so, ma non ci sta un uomo solo». «Sì, credo», aveva risposto Berto, e lo aveva scrutato in modo strano. «Ma forse saranno due, il timoniere e il custode». «Ti pare?» fece Ario. «Io credo invece che non ci stia nessuno. Salirà tutt'al più un nocchiero per muovere il timone quando la Maona viene rimorchiata». Ora, con la stiva quasi carica, la Maona era immersa sin quasi all'estremo limite. Ario pensò, osservandola, e provò una specie di sollievo, che col refrigerio portato dall'acqua alle murate, prima scottanti di sole, la cabina doveva essersi fatta più fresca. Si mosse e tornò a guardare in fondo, oltre i moli e oltre la stazione marittima, le coffe, le torri di comando e i fumaioli degli incrociatori. Poi gli occhi gli corsero alla Virtus e rivide sul ballatoio alto quelle scarpette bianche. Non giacevano più riverse, una qua e una là, ma rialzate e vicine, al sole. «Che sia uscita?» si chiese, «con un altro paio di scarpette. Oppure in casa?» Il solo pensiero di Lidia gli metteva un malessere, anzi un'angoscia, che avrebbe voluto a tutti i costi vincere. Invece, quell'angoscia cresceva sino a stringergli qualcosa in petto e si sentiva chiudere la gola. «No, non può essere vero», si diceva. «Berto è pazzo!» Giorni fa, al ritorno della visita alla Maona, non appena furono nello specchio d'acqua che si allarga in mezzo al mandracchio, lontano dalle rive e dai velieri e dai pontoni, Berto smise di vogare. «Se ti racconto una cosa», gli aveva domandato, scrutandolo quasi torvo e rosso in viso, «mi prometti di non dirla a nessuno?» «Te lo prometto», rispose Ario, e si sentì crescere il respiro, mentre un torpore caldo gli prendeva le gambe. «Bada!» lo avvertì Berto, guardandolo da sotto la fronte come pronto a un cozzo con due occhi accesi, quasi minacciosi. «Sei pronto a giurarmi che non lo racconterai ad anima viva? Nemmeno...» lo fissò con più forza ancora. «A tua madre?» «Te lo giuro». Rapido, fissandolo sempre, Berto gli aveva raccontato. Ma era poi vero. Non si inventava tutto, come la storia dell'esame. Da tempo aveva osservato, diceva, che Lidia gironzolava a certe ore per i corridoi interni della canottiera. «Vicino, sai, alla doccia». «Già», assentì Ario. «Come? Lo sai?» sussultò Berto e lo guardò con gli occhi spalancati. «Sì, no, volevo dire che l'ho veduta, che l'ho incontrata lì anch'io. Ma cosa faceva?» «Lì, è vero? Vicino al camerino scuro dove da piccoli ci faceva la riverenza?» «Bene», riprese. «Un giorno l'ho vista scivolar dentro, dopo essersi guardata intorno. Mi avvicinai per sorprenderla, ma poi mi trattenni, perché mi parve che non fosse sola e che l'uscio fosse chiuso a chiave. Si udiva dentro come un movimento. Mi allontanai e stetti a spiare da un angolo. Passò un certo tempo. Finalmente l'uscio si riaperse». Qui Berto tacque e guardò sull'acqua il lieve velo nero di pulviscolo di carbone che copriva la superficie. «E?» incalzò Ario col fiato sospeso. Era lui ora a fissare Berto con gli occhi spalancati. «E uscì Eneo, che andò alla doccia, ove si udì poco dopo lo scroscio dell'acqua. Me ne ricordo perché mi sorprese che facesse la doccia quella sera due volte, prima di entrare nel camerino e appena uscito. Di lì a qualche istante, io ero sempre in quell'angolo, riapparve lei e sparì subito in casa». «Ah!» balbettò Ario. «Si erano dati appuntamento, dici, lì nel camerino? E ci sono...» Era diventato pallido e sbatteva le palpebre. «E ci sono stati a lungo?» «Sì, ma ascolta il più bello. Entrai e...» Si interruppe e lo scrutò in faccia, tra sospettoso e severo. «Mi giuri?» volle farsi di nuovo promettere. «Che non fiaterai con anima viva?» Con la gola secca, fissandolo nelle pupille, Ario giurò. «È grave, capisci? È una cosa, è quella cosa che una ragazza non fa mai sapere. Quando tutti la sanno e ne parlano...» Ario assentì, sempre più pallido. Attento, stava ritto sul sedile, con una rigidezza che cominciava a fargli male. «Dimmi», borbottò col capo leggermente proteso, e fu come se attendesse che Berto gli vibrasse un colpo, subito. «Entrai e al primo passo incespicai in qualcosa. Erano le mutandine di Lidia, quelle fini che si è comprata in primavera». Ario sentì, pur nell'ansia che lo incalzava, un'impressione di freschezza che ricordò poi a lungo. Ma Berto continuava: «Tutte sciupate e molli di sangue». Tacque un istante e fissò Ario, che lo guardava senza parole. «Hai capito?» gli domandò. Ario non rispose. «No, sì», fece infine come disorientato, e diventò rosso. «Erano bagnate di sangue, dicevi. Ma allora...» «Allora», lo guardò Berto con superiorità, «doveva avere i suoi giorni. Ma che, si vede proprio che non sai nulla. Alle ragazze, la prima volta, succede sempre così». E cominciò a spiegargli. «Come fai a non saperlo?» Ario lo guardava, e guardava tutto intorno quel pulviscolo di carbone sul mare, e più in là le canottiere, la Virtus, bianca, e il ballatoio di sinistra e su quello l'uscio che dava all'andito della doccia. E non ascoltava, non udiva più. Erano, capisci, tutte appallottolate e molli di sangue ancora caldo. Lo sentì soltanto concludere. «Hai compreso, finalmente!» Ario taceva. «Non fare il mona! Hai capito?» «Sì!» Smontato dal caiccio, ritornò a casa quasi barcollando. Entrò nella cabina, si buttò sul letto e stette lì, immobile. Trascorse il pomeriggio, venne l'ora di cena ed egli non si muoveva. Supino, con gli occhi aperti e le mani abbandonate, gli pareva di non potersi rialzare più. Riuscì a ripensarci, costringendosi a restare calmo, il giorno seguente. Ecco, si diceva, quel mattino che li ho veduti assieme sul ballatoio alto e si parlavano seri, dovevo capire che si stavano riavvicinando, che ricominciavano. Era da quel momento, dai giorni della ricomparsa di Eneo dopo le regate di Napoli, che Lidia aveva ripreso con lui e le cose erano precipitate. Non si capacitava che tutto fosse finito così. Gli pareva, con un impeto quasi prepotente, di essere ancora in tempo per salvare Lidia. Possibile che l'irrimediabile fosse compiuto? Che per un'inezia, per pochi giorni di ritardo, egli non potesse fare nulla per lei, mai più nella vita? Gli girava il capo soltanto a pensarci. Ed era stato un filo, come se ne ricordava, dal tirarla a sé. Bastava risponderle da amico, stare un po' con lei, scherzare quando gli veniva accanto sul ballatoio. Perché quel mattino l'aveva trattata così male? Perché l'aveva allontanata? Riudiva le proprie parole. No, non siamo amici, non lo siamo mai stati. Punta, alla prima occasione, lei lo aveva trattato allo stesso modo. Ma che contava? Se avesse saputo destreggiarsi un poco, era ancora in tempo, durante l'assenza di Eneo, dopo quel pomeriggio che l'aveva accompagnata sino in fondo al molo, per riprendersi e rifare amicizia. E invece, maledetti calzoni lunghi, pensava, perché ci ho tenuto tanto? Perché non sono tornato con lei anche senza averli? Gli pareva adesso che i calzoni lunghi non contassero niente, come non contavano certe camicie di seta che un cugino aveva portate a Berto, ed egli ne andava tronfio, da Shanghai. E non si capacitava di non aver più saputo farsi avanti con Lidia senza di essi. Tuttavia, a tratti, sentiva un impeto cieco di rancore, quasi di odio, contro sua madre, che non aveva voluto farglieli, quasi fosse lei la colpa di tutto. L'accusava in quegli istanti, oscuramente, senza voler ragionare, anche di ciò che era accaduto a Lidia. Si ritrovò con Berto e il discorso cadde, non appena furono soli, dove l'avevano interrotto. Era la voce di Ferdinando Bruni per la 17ª puntata dell'Onda dell'Incrociatore di Pier Antonio 48 Gambini. Questo è il ciclo proposto ad alta voce per tutto giugno. Si concluderà questa settimana, ma potete riascoltare le puntate precedenti al nuovo sito raiplayradio.it alla pagina di Ad Alta Voce. Un programma, ve lo ricordo, a cura di Anna Antonelli, Fabiana Carobolante e Lorenzo Pavolini, con la regia di Luigi Iavarone.